Italia in controluce. Italia in controluce, il programma di Radio 24 che indaga sulla cronaca, sulla politica, sul costume italiano, due edizioni quotidiane che raccontano l'Italia. In studio Daniele Biacchessi. Oggi è venerdì, ogni settimana a quest'ora do la linea a Piera Cesi per Scuola in controluce. Scuola in controluce. Coloro che non ci sono più possano vedersi riconfermare un minimo di giustizia. Purtroppo non li riporterà in vita, ne siamo consapevoli, però quantomeno che sia affermato un principio di responsabilità. Chi deve pagare che paghi e chi ancora in questa città continuerà a costruire che ci pensi. Chi deve pagare che paghi, ci dice Simona Giannangeli, l'avvocato che segue i familiari di uno degli 8 ragazzi morti il 6 aprile del 2009 fra le macerie della casa dello studente all'Aquila, quando alle 3:32 di quel maledetto giorno c'è stata la scossa più forte, quella che ha raso al suolo gran parte della città, perché che quell'edificio fosse a rischio lo sapevano tutti. Davide Centofanti era uno di quegli 8 ragazzi, era da pochi mesi all'Aquila, studente di ingegneria. Sua zia, Antonietta Centofanti, residente all'Aquila, non si dà pace e chiede giustizia. Sicuramente la cosa più inquietante che accadde quella notte fu il fatto che il terremoto ci trovò tutti in casa. Contrariamente a quanto era nostra abitudine dei nostri genitori e dei nostri nonni. La terra qui in qualche modo ha sempre ballato, per cui insomma, al primo segnale si usciva di casa. Invece è stata, diciamo, ciò che è stato drammatico è stato il verdetto, no? L'editto della Commissione Grandi Rischi che c'era assicurato, escludendo che ci sarebbe stato un evento catastrofico, anzi sostenendo che più la terra ballava e meno c'era il rischio di scosse devastanti, perché in qualche misura la terra buttava fuori energia, insomma, gradualmente. E invece quella notte purtroppo sappiamo quello che successe. Ci ha colpito tutti nel sonno. E dormivano anche i ragazzi nella casa dello studente. I ragazzi che non avevano qui delle famiglie, no? Quindi erano tutti fuori sede, quindi sì, dormivano anche loro, erano usciti. Una seconda scossa e poi era molto freddo quella notte, molti avevano gli esami e quindi sono rientrati e sono andati incontro alla morte. Non c'è stata una strage solo perché era a ridosso delle feste di Pasqua, periodo e molti ragazzi erano tornati a casa. Loro sarebbero partiti lì a 2 o 3 giorni. Ho perso mio nipote, lì, che era il più piccolino di tutti, aveva 19 anni. Che era lì da quanto tempo? Era lì da pochissimi mesi. Lei l'aveva sentito la sera prima, qualche giorno prima, vi eravate sentiti? L'avevo sentito qualche ora prima, chiedendogli di uscire, di venire a casa mia. Tanto passava da mezz'ora costantemente, perché c'era un piccolo giardino, si poteva trovare il campo fuori. Ma lui mi ha risposto che era in giro con gli amici, che facevano qualche vicenda, che era tranquillo. Quindi è l'ultima volta che l'ho sentito, un paio di ore prima che morì. E come seppe lei del crollo della casa dello studente? Ho cominciato a telefonare, questo del cellulare squillava a vuoto, poi c'era un vicino di casa fuori per una strada con una radio e abbiamo sentito la radio e sono andato di posta sotto davanti alla casa dello studente. Che non c'era più? Che era tutto inclinato da una parte, il blocco centrale era pressoché inesistente. 2 giorni dopo hanno continuato le operazioni di demolizione, l'hanno chiamato operazione chirurgica perché era l'unico modo per arrivare giù e raccogliere i corpi dei ragazzi senza vita, perché era impossibile recuperarli. Infatti sono stati tirati fuori dopo 3 giorni e 3 notti, erano finiti in un interrato. Lui e gli altri ragazzi, sì. Le resta comunque la rabbia che forse qualcosa si poteva fare per impedire che questo avvenisse? Non mi passerà più finché vivo, una rabbia indicibile, ma da qua che non può essere per una rabbia cieca. Bisogna dare una strada. Per me è stato costituire questo comitato, essere presente alle udienze, mettermi in relazione con i comitati nazionali della Tolatista, Viareggio, Giambilieri, Moncaio Meglieri, insomma un ferrato per fare in qualche modo rete fra di noi che abbiamo subito questi lutti, non per casualità, ma perché qualcuno non ha compiuto il proprio, non ha rispettato le regole, quindi lavoreremo insieme, stiamo mettendo su questo filo che attraversa tutta l'Italia. Per fare in modo che non accada più. Certo, questo è l'obiettivo, no? Perché ormai noi abbiamo perso ciò che si poteva perdere, in modo, ma ci sono i vivi, ci sono le nuove generazioni da proteggere, e quindi è importante combattere per loro, no? Perché devono vivere in un mondo in modo diverso, in un mondo dove la speculazione edilizia, l'accaparamento di denaro ad ogni costo, buttandosi alle spalle ogni regola di sicurezza sul lavoro, insomma, che tutto questo venga cancellato, non perché credo sia impossibile, ma almeno ridimensionato, tenuto sotto controllo e stigmatizzato e punito dalla legge lì dove si riesce a migliorarli. Un processo ancora non c'è stato, i tempi della giustizia sono lunghi. Per il crollo della Casa dello Studente sono indagate 11 persone, costruttore, progettisti, direttore dei lavori, collaudatori e 3 responsabili amministrativi per il diritto allo studio universitario. Indagati a vario titolo per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni gravissime, perché molti sono stati anche i feriti gravi. Un processo dunque ancora da fare, intanto però una super perizia ha evidenziato responsabilità gravissime, come ci racconta ancora l'avvocato Giannangeli. Il crollo dell'ala nord della Casa dello Studente è da ricondursi non esclusivamente al terremoto in sé, ma alla cattiva progettazione e alla cattiva catena di interventi successivi che su quell'immobile si sono realizzati, quando un immobile costruito alla fine degli anni 60 come condominio via via viene trasformato in una struttura deputata ad ospitare studenti, quindi viene una struttura originaria caricata di peso, alterata nei pesi che poteva reggere, nei carichi, tutto questo senza tener conto di tutte quelle forze che un terremoto scatena, considerato che siamo in una zona altamente sismica, e quindi la consulenza ha comunque stabilito in capo a ciascuno delle responsabilità. La Casa dello Studente, nello specifico l'ala nord, non è collassata solo perché la magnitudo del terremoto è stata elevata, anzi è arrivata ad affermare che per la sua natura certamente la scossa è stata forte, ma non così forte da determinare un crollo, tant'è che gli edifici adiacenti alla Casa dello Studente, uno in particolare messo proprio a fianco e che è stato costruito dalla stessa persona e che ha in realtà resistito, come dire, alla scossa che c'è stata, questo dimostra che su quell'edificio gli interventi sono stati assolutamente fuori norma. Questa superperizia avvalora la vostra tesi? Questa superperizia avvalora, e avvalora anche, non so se questo può interessare, per noi è stato sempre molto importante, anche se purtroppo la procura non ha mai ritenuto di dover avviare un'indagine, avvalora anche quello che già si sapeva, perché fra il 2003 e il 2006, in ossequio ad una ordinanza del 2003, anche la Regione Abruzzo dovette condurre uno studio sulle condizioni di criticità alla luce di possibili terremoti di una serie di edifici su tutto il territorio. E per quanto riguarda l'Aquila, questo studio, che costò ben 5 milioni di euro, evidenziò che una serie di edifici di interesse strategico e di natura pubblica dell'Aquila erano a grave rischio, e tra questi la Casa dello Studente. Questo studio riguardò per esempio anche altri edifici, Committo, prefettura, ospedale, facoltà varie, tutti quegli edifici che purtroppo dopo 3 anni sono venuti giù, cioè una regione in carica per 5 milioni di euro, una società, questa società conduce uno studio, questo studio viene messo in un cassetto. Quindi insomma quella Casa dello Studente che dovesse venire giù ad una forte scossa lo sapevano tutti. Quella Casa dello Studente aveva già da mesi una serie incredibile di lesioni e di crepe, gli stessi studenti le segnalavano e purtroppo purtroppo è caduto tutto nel vuoto. E perché qualcuno se ne accorgesse, sono dovuti morire 8 ragazzi. 8 ragazzi, sì, in una città dove alla fin fine sono morti su 309, 56 tra studentesse e studenti universitari. Segno quindi che coloro che venivano qua a studiare hanno pagato un prezzo veramente alto. Era Italia in Controluce, seconda edizione. Questa puntata, come tutte le altre, in podcast su radio24.it. Per comunicare con noi usate Facebook, pagina, gruppo, Twitter, blog sul sito della radio, tramite mail controluce@radio24.it. Lunedì 9 aprile andrà in onda una sola puntata, quella delle 13:30.